Benvenuti al settimo episodio di La casa del ciliegio. Oggi parleremo di nuovo di come la mindfulness può essere uno strumento potente per gestire l'ansia. Se ti senti sopraffatto dalla preoccupazione o se la tua mente corre continuamente su ciò che potrebbe accadere, questo episodio è pensato per te. Come abbiamo anticipato, l'ansia è una risposta naturale del nostro corpo alla percezione di pericolo o stress. Tuttavia, quando diventa cronica o eccessiva, l'ansia può interferire con la nostra vita quotidiana e la nostra felicità. La mente ansiosa tende a proiettarsi nel futuro, spesso immaginando scenari negativi e incontrollabili. La mindfulness ci insegna a essere nel presente, a lasciare andare le preoccupazioni per il futuro e a osservare i nostri pensieri senza identificarsi con essi. Invece di lottare contro l'ansia, impariamo a osservarla senza giudizio, accogliendola con una mente aperta e consapevole. Come abbiamo già anticipato, una tecnica molto utile è la pratica della respirazione consapevole. Focalizzarsi sul respiro ci aiuta a radicarci nel presente e a diminuire il caos mentale. Un'altra pratica utile è la scansione corporea o body scan, che ci aiuta a rilasciare tensioni fisiche e a prendere consapevolezza delle sensazioni nel corpo. Se desideri scoprire come applicare la mindfulness nella gestione dell'ansia, ti invito a iscriverti ai miei corsi. Insieme esploreremo tecniche più approfondite per ridurre l'ansia e vivere in modo più sereno. Nel prossimo episodio esploreremo come la mindfulness possa aiutarci nella gestione del dolore. A presto!